la chitarra fa zon, zon, e la gran cassa fa boom, boom. Ogni cowboy si ridesta in finestra già sta mentre il valzer fa zon, zon. Nessun fucile fa boom, boom, nessuna freccia fa tum, tum. La diligenza va in pace, sapete perché? Conosco un cowboy laggiù nel far west che corre a cavallo da ovest a est. Quel grande signor, terrore dei Sioux, è alto tre spanne non più. Sapete con che conquista i Sioux? Col valzer del zoom pappazzù. E yippie e yippie-ay-o, queste parole tradurvi non so. E yippie e yippie-ay-o, su ripetete con me. Conosco un cowboy laggiù nel far west che corre a cavallo da ovest a est. Ti aspetta laggiù in mezzo ai Sioux col valzer del zoom pappazzù. Yippie-ay-ay, yippie-ay-o, queste parole tradurvi non so. E yippie-ay-ay, yippie-ay-o, su ripetete con me. Conosco un cowboy laggiù nel far west che corre a cavallo da ovest a est. Ti aspetta laggiù in mezzo ai Sioux col valzer del zoom pappazzù. Zoom, zoom, già la chitarra fa zoom, zoom, e la gran cassa fa boom, boom. Ogni cowboy si ridesta in finestra già sta mentre il valzer fa zoom, zoom. Nessun fucile fa boom, boom, nessuna freccia fa tum, tum. La diligenza va in pace, sapete perché?